Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo dei sindacati. Ne prendiamo spunto dal libro di Mimmo Carrieri. Buonasera, professor Carrieri. Buonasera a lei e a tutti voi, grazie. Mimmo Carrieri, professore, insegna sociologia economica e del lavoro all'Università di Teramo, ha scritto altri libri sul sindacato, per esempio Spazio al ruolo dell'autonomia della riforma della contrattazione pubblica, e per i tipi del mulino, nella collana Farsi un'idea, ha scritto appunto questo libro su i sindacati tra le conquiste del passato e il futuro da costruire. È un libro che inizia immediatamente con una domanda provocatoria: servono ancora i sindacati? E allora a cosa serve un libro sui sindacati, Mimmo Carrieri? Beh, intanto è un libro che ricostruisce una vicenda e, se si vuole, una parabola. Io mostro per un pubblico non di esperti, non di addetti ai lavori, quali sono state le ragioni del successo storico in passato e fino a poco tempo fa delle organizzazioni sindacali nei paesi più avanzati. Cerco anche però di mettere a fuoco quali sono le ragioni che oggi accompagnano le difficoltà crescenti per i movimenti sindacali di tanti paesi. Parliamo sempre dei paesi sviluppati, perché nei paesi emergenti, nei paesi che sono oggi al centro delle dinamiche di crescita e di sviluppo più significative, molto spesso le organizzazioni sindacali sono alla ricerca di un ruolo più significativo, lì dove esistono. Certo. Abbiamo una forte eccezione che è quella cinese, ma anche in Cina ci sono conflitti sociali e domande sindacali crescenti. Diciamo, nei paesi più sviluppati però ci sono difficoltà. Io cerco anche di capire le ragioni di queste difficoltà e se in uno scenario profondamente modificato, quelle delle economie dell'informazione, le organizzazioni sindacali possono svolgere ancora un ruolo e se questo ruolo può essere così rilevante come è stato per tanta parte del Novecento. Ecco, infatti questo libro parte proprio con una visione storica dei primi dell'Ottocento, della rivoluzione industriale, per arrivare poi molto concretamente, molto rapidamente anche ai problemi attuali dei sindacati in Italia, che si riconoscono ormai con questa sigla che lei dice sembra quasi un ritornello, CGL, CISL e UIL, che vengono sempre messe insieme, anche se hanno avuto poi, continuano ad avere delle fasi di maggiore unità e di maggiore divisione, sempre tenendo un equilibrio di non essere mai troppo divisi e mai troppo uniti. Quindi il sindacato in Italia è un sindacato che comunque è un sindacato che ha avuto la stessa parabola degli altri sindacati degli altri paesi, o ci sono delle particolarità molto forti in Italia rispetto non tanto alla Cina quanto, che so, alla Germania o alla Gran Bretagna? Ma intanto diciamo che la forza dei sindacati del nostro paese è più recente rispetto ai paesi che abbiamo citato, perché diventano rilevanti sulla scena pubblica sostanzialmente negli ultimi 40 anni. Ci sono parallelismi con le altre esperienze, ma anche diversità rispetto alla Germania e alla Gran Bretagna che lei citava. La nostra è un'esperienza sindacale sin dalle origini molto pluralista, al punto che il periodo di CGL unitaria dal 44 al 48 va considerato come un'eccezione, non come la norma all'interno delle nostre relazioni industriali. E questa pluralità è rimasta nel tempo una costante. Lei è stato molto bravo a citare un passaggio del mio ragionamento in cui sottolineo che, pur essendoci state divisioni, tensioni e tentativi di unità organica, in realtà sono quasi sempre state escluse le due polarità estreme dall'azione dei sindacati, la divisione totale o l'unione completa. Questa, diciamo, è una delle peculiarità. L'altra peculiarità è che forse le organizzazioni sindacali italiane negli ultimi anni restano, sul piano dell'insediamento sociale e organizzativo, tra le più forti, non solo in numeri assoluti. È nota che c'è la peculiarità della sindacalizzazione dei pensionati, che è una forte peculiarità organizzativa del nostro movimento sindacale, che porta molto in alto il numero degli iscritti iscritti alle nostre organizzazioni, che oggi sono circa 12 milioni, e quindi probabilmente è il sindacato numericamente più forte del mondo occidentale. Ma è numericamente più forte, ma questa forte presenza dei pensionati condiziona anche l'azione sindacale, perché uno sindacato dei lavoratori che ha una maggioranza di pensionati sarà più propenso a sostenere e difendere le istanze dei pensionati, che spesso non coincidono con quelle dei lavoratori attivi e soprattutto dei giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. Quindi è un sindacato che ha anche queste difficoltà, Mimmo Carrieri. Certo, diciamo, il dato significativo è che negli ultimi 10 anni le organizzazioni sindacali italiane sono tra le poche che hanno aumentato anche i numeri degli iscritti tra i lavoratori attivi, sia pure in modo modesto e non così marcato. Ma è vero che questa forte capacità di rappresentare i pensionati determina anche una difficoltà di sintesi tra istanze di gruppi nuovi come quelli di giovani lavoratori, di soprattutto di occupati flessibili e instabili, o di lavoratori con alte professionalità che attendono oggi una risposta ai loro problemi, e questa risposta è difficile in quasi tutte le esperienze sindacali europee. In Italia probabilmente questa è complicata anche dal forte peso degli interessi dei lavoratori più anziani o dei lavoratori pensionati. Io devo dire non tanto o solo i pensionati, ma direi che l'orientamento dei sindacati italiani è stato molto condizionato dai lavoratori prossimi alla pensione nel corso degli anni più recenti. Spesso si sono attestati su posizioni difensive nei confronti delle richieste dell'innalzamento dell'età pensionabile o di altre misure che vanno in quella direzione. E al di là adesso di ragionamenti complicati sull'equità intergenerazionale, va detto che questa focalizzazione ha spesso portato a trascurare o a dare una priorità adeguata ad altre domande, ad altre aspettative, pure presenti significativamente all'interno del mondo del lavoro. Ecco, questo ha comportato anche una perdita in fondo di credibilità e di fiducia complessiva verso il sindacato, verso anche la capacità di supplenza del sindacato verso il mondo politico. Infatti lei nella conclusione parla di rompicapo da sciogliere, affermando che i sindacati devono modificare il catalogo delle richieste e la propria agenda delle priorità, quindi devono passare in fondo dalle richieste quantitative alle richieste qualitative, alle richieste di un modello sociale che sia più aperto complessivamente, che non sia più una difesa, diciamo così, antagonista come è stata quella sindacale tra diverse parti, in fondo anche sulla base di una storia di lotta di classe, ecco, una difesa di interessi particolari, ma possa diventare una difesa di interessi generali, anzi più che una difesa, una promozione di interessi generali. È possibile intravedere questo percorso, Mimmo Carrieri, professore? Ma intanto diciamo che quando i sindacati si sono avvicinati alla sfera pubblica, hanno partecipato alla definizione di politiche pubbliche o di concertazione, in genere sono stati capaci di coniugare la tutela di interessi sezionali particolari con interessi più generali, lotta all'inflazione, ricerca di strumenti per la crescita occupazionale o anche politiche orientate verso lo sviluppo locale. Quindi ci sono esperienze sicuramente positive. È vero però che c'è bisogno di un cambiamento di passo, un cambiamento di passo che spinga più in direzione di misure qualitative, di una maggiore attenzione sia a diritti individuali che sono spesso molto differenziati dai lavoratori, che a istanze di qualità della vita, di migliore tutela nell'ambito dell'intero percorso lavorativo e non all'interno del posto lavorativo, che richiedono un aggiustamento di tiro e di attenzione da parte dei sindacati. Ora, quello che lei dice è se esistono i presupposti per questo. Mi sembra che i sindacati siano cambiati dal punto di vista di quello che fanno in Italia, ma anche in altri paesi, più di quello che dicono. Spesso il lessico e le immagini che i sindacati emanano sono più tradizionali di quello che fanno. Anche in Italia i sindacati ormai hanno tutta una serie di attività di servizio, di tutela individuale che sono molto forti, molto ramificate e che spesso riportano contatti con tutta la stratificazione anche ampia del mercato del lavoro. Credo che manchi però una sintesi adeguata e anche una maggiore disponibilità verso le innovazioni. Io cito un famoso studioso americano, Tannenbaum, che parlava di sindacati che debbono essere necessariamente conservatori ma anche rivoluzionari. I sindacati sono condannati a cercare di conservare il più possibile diritti dei lavoratori già maturati, a proteggerli da mercati che tendono a erodere appunto le tutele collettive, ma per fare questo oggi i sindacati dovrebbero essere più proiettati verso terreni nuovi, anche verso la capacità di incidere maggiormente partecipando al rischio di impresa, a quelle che sono le modalità con cui si sono organizzate le economie, certo, più fluide e flessibili e globali nelle quali operano. Ma ci sono spinte che vanno in questa direzione. Indubbiamente, quello della partecipazione è uno dei temi forti, si potrebbe discuterne per ore, perché non è forse nel DNA del sindacato l'avere una prospettiva di partecipazione dopo aver parlato di tanti anni di conflitto, ma forse è questa la prospettiva, come peraltro si discute sempre più apertamente per una società moderna, la prospettiva giusta per cercare di che ci sia non tanto uno contro l'altro, ma tutti a favore di qualcosa. Ringraziamo Mimmo Carrieri, docente di economia del lavoro all'Università di Teramo, autore del libro I sindacati, farsi un'idea, nella collana del Mulino. Sono 144 pagine per €9,80, tra le conquiste del passato e il futuro da costruire. Grazie a Mimmo Carrieri. Grazie a voi, arrivederci. Dopo aver parlato di un libro di economia di estrema attualità come quello di Mimmo Carrieri sui sindacati, parliamo di un classico, un piccolo classico di Adamo Smith, il fondatore dell'economia liberale, noto appunto soprattutto per il suo libro La ricchezza delle nazioni. E Donzelli presenta L'economia dei sentimenti, un libro che raccoglie uno scritto di Adamo Smith che è stato realizzato, scritto 17 anni prima della ricchezza delle nazioni. Però questo scritto anche proprio dal titolo Economia dei sentimenti costituisce la premessa indispensabile per comprendere come ogni attività umana, e quindi anche quelle che hanno una precisa valenza economica, non può che tener conto non solo e non tanto delle motivazioni personali, quanto in maniera fondamentale delle dimensioni relazionali. E dimensioni relazionali sono basate non solo sulla logica, non solo sulla razionalità, ma anche sull'arbitrarietà, sui sentimenti, sulle emozioni. E lo spiega Michele Behe nell'introduzione di questo libro, ricordo Economia dei sentimenti, edito da Donzelli, in cui vengono presentati i passi più importanti dei due libri dell'economista scozzese, e in cui si afferma soprattutto una cosa, la simpatia. Ecco, la simpatia è un elemento fondamentale delle relazioni sociali, che è una parola di origine greca, in cui pathos indica la disponibilità a essere modificati da qualcosa che viene dall'esterno, permettendo di soffrirne, e sim indica la disponibilità a essere modificati dal pathos altrui. Da qui deriva la parola compassione. Quello che muove la scelta delle persone è quindi l'eterna congiunzione tra ragione e sentimento, tra interesse e solidarietà, tra profitto e gratuità. Per quanto egoista, sottolinea Behe nell'introduzione, lo si possa supporre, l'uomo ha evidentemente nella sua natura alcuni principi che lo inducono a interessarsi alla sorte degli altri e che gli rendono necessaria la loro felicità. E quindi la prospettiva di Adamo Smith è la concezione di una società in cui non è possibile definire delle regole che precedono e guidano l'agire umano, ma è possibile giudicare i comportamenti e individuare le motivazioni psicologiche che stanno alla base di questi comportamenti. C'è quindi, al di là delle apparenze, un ragionamento che appare lontano rispetto all'applicazione astratta di un'ideologia prefissata. Ecco, è questa l'importanza in fondo di uno dei grandi fondatori dell'economia moderna, Adamo Smith. Questa è L'economia dei sentimenti, edito da Donzelli, è un libro agile, sono €9,50 per 160 pagine. Grazie, ringrazio Carmelo Loricella in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.